7:30 un goccio di caffè e a lavorare correre, ma tutte le mattine io però ritardo sempre un po'. Le 7:30 un goccio di caffè e a lavorare correre, ma tutte le mattine io però ritardo sempre un po'. Il tram mi porta in centro e poi da lì due passi a piedi un attimo, le stesse facce tristi troverò, il cartellino timbrerò. Il tram mi porta in centro e poi da lì due passi a piedi un attimo, le stesse facce tristi troverò, il cartellino timbrerò. E come tutti i giorni della settimana, quando chiameranno la segretaria, ci sarà qualcuno che mi guarderà e riderà, ed incontrandomi nel corridoio con il direttore, mai, però la donna delle pulizie vuol bene solo a me. Il mio lavoro è stupido, lo so, non ho soddisfazioni mai, però la donna delle pulizie vuol bene solo a me. Ma ieri io non ne potevo più, e quando il direttore si affacciò, la segretaria venga qui da me, e sono andato io.